Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera a tutte le ascoltatrici e l'ascoltatore di Radio Wombat. Qui è Addu che vi parla, sono tornata finalmente ai microfoni. Vi giuro che non vedevo l'ora perché comunque stare in regia ha tutto il suo fermento e comunque poter trasmettere qui su Radio Wombat è sempre una grande emozione per me, quindi sono veramente contenta di essere tornata e infatti mi scuso molto per avervi abbandonate per un po' di tempo, oltretutto facendo false predizioni, nel senso che avevo scritto sul sito che Nervature sarebbe stata bisettimanale, invece nell'ultimo mese qualcosa di più, insomma, non sono riuscita a tenere nemmeno questa cadenza, quindi davvero mi scuso. So anche che ho diciamo degli argomenti in sospeso perché alcuni ascoltatori e ascoltatrici mi hanno richiesto, in particolare riguardo a intelligenza delle piante, quindi un argomentone enorme, bellissimo, super appassionante. Sto preparando una puntata in merito, infatti, che non sarà sicuramente esaustiva vista la grandezza appunto del tema, però intanto si inizia così. Allora, dunque, quindi oggi è lunedì 25 novembre, questa puntata è registrata, però mi dispiace, non sarò in diretta, ma comunque voi potete scrivere sul pad, quindi il foglio di testo condiviso che usiamo per contattare, insomma, per entrare in contatto con voi ascoltatrici, e vi ricordo il link direttawombat.vado.li. Potete comunque scrivere commenti e domande lì e poi io li richiappo, ecco, fuori dai microfoni. Allora, quindi quest'oggi continuo con questo progetto di audiolibri, quindi di letture che ormai porto avanti da un pochino qui su Nervature, e infatti vi ho lasciato proprio in sospesissimo perché avevamo iniziato insieme l'audiolibro di La rivoluzione del filo di paglia di Masanobu Fukuoka. Non siamo nemmeno a metà, anche se quasi, dai. Quindi oggi rinizio, ecco, con queste letture. Probabilmente però, sicuramente non finirò questa volta, quindi ci sarà almeno un'altra puntata di lettura a riguardo. quindi quale sottofondo migliore di un po' di jazz Japanese per accompagnarmi in questa lettura del ormai, come sapete, biologo e scrittore coltivatore, soprattutto Masanobu Fukuoka. Piante da frutta. Coltivo anche diverse varietà di agrumi sulle pendici del monte vicino a casa mia. Dopo la guerra, appena cominciai a fare il contadino, iniziai con circa 7.000 metri quadri di agrumeto e 1.500 metri quadri di risaia. Ma adesso solo gli agrumeti coprono 5 ettari. Sono arrivato a questa terra rilevando i pendii circostanti che erano stati abbandonati. Poi li ho disboscati a mano. In diverse di queste scarpate i pini erano stati tagliati pochi anni prima e tutto quel che feci fu di scavare delle fosse secondo le linee ipsometriche e mettere a dimora le piantine di agrumi. Dei germogli erano già apparsi dai ceppi tagliati e col passare del tempo cominciarono a svilupparsi rigogliosamente l'erba delle praterie giapponesi, il kogon grass e le felci. Le piante di agrumi si persero in un groviglio di vegetazione. Tagliai la maggior parte dei germogli di pino, ma lasciai che alcuni ricrescessero come frangivento. Poi ho interrotto la crescita dei cespugli e del manto erboso del terreno e ho seminato il trifoglio. Dopo 6 o 7 anni, finalmente, le piante di agrumi fruttificarono. Ho tolto la terra da dietro le piante per formare terrazze e il frutteto appare adesso un po' diverso da tutti gli altri. Naturalmente, ho rispettato le regole di non lavorare la terra, non usare fertilizzanti chimici, insetticidi né diserbanti. E un fatto interessante è stato questo, che all'inizio, quando le piantine crescevano sotto le piante forestali rigermogliate, non c'era traccia di danni da insetti, come la comune cocciniglia, virgola. Quando i cespugli e i nuovi getti degli alberi furono tagliati, la terra diventò meno selvaggia e più simile a un frutteto. E solo allora questi insetti apparvero. Non uccidere i predatori naturali. Tutti sanno, credo, che siccome i parassiti più comuni dell'agrumeto, l'iceria e la cocciniglia cerosa degli agrumi, hanno dei nemici naturali, non c'è bisogno di insetticidi per tenerli sotto controllo. Una volta si usava in Giappone l'insetticida Fusol. I predatori naturali vennero completamente sterminati. I problemi che ne derivarono sono ancora evidenti in molte province. Questa esperienza credo che abbia fatto capire alla maggior parte dei contadini che non è desiderabile eliminare i predatori perché a lungo andare i danni degli insetti aumenteranno. Per gli acari e le cocciniglie che compaiono, se una soluzione di olio di macchina, una sostanza chimica relativamente innocua per i predatori, viene diluita da 200 a 400 volte e irrorata leggermente a metà estate e le comunità di insetti sono lasciate in pace a raggiungere il loro equilibrio naturale dopo questo intervento, il problema generalmente si risolve da solo. Ma questo metodo non funzionerà se un insetticida fosfo organico sarà già stato usato in giugno o in luglio, poiché anche i predatori saranno stati uccisi con questa sostanza chimica. Non dico di promuovere l'uso delle cosiddette irrorazioni organiche innocue, come la soluzione di aglio e sale o l'emulsione di olio di macchina, e non sono nemmeno favorevole all'introduzione di specie straniere di predatori nel frutteto per controllare insetti che danno noie. Gli alberi si indeboliscono e vengono attaccati dagli insetti nella misura in cui deviano dalla forma naturale. Se le piante crescono, secondo un modello artificiale di sviluppo, e poi vengono abbandonate in questo stato, I rami si intrecciano e i danni degli insetti sono una necessaria conseguenza. Ho già raccontato come spazzai via diversi acri di agrumi in questa maniera. Ma se gli alberi vengono corretti gradualmente, ritorneranno almeno pressappoco alla loro forma naturale. Quando le piante si rafforzano, i provvedimenti per controllare gli insetti diventano inutili. Se si pianta un albero con cura e lo si lascia seguire la sua forma naturale dall'inizio, non ci sarà alcun bisogno di potare o fare trattamenti di nessun genere. La maggior parte delle piantine che si comprano però sono già state potate o hanno subito danni alle radici in vivaio prima di essere trapiantate nel frutteto, il che le rende la potatura necessaria subito, fin dall'inizio. Per migliorare il terreno del frutteto ho provato a piantare diverse varietà di alberi, fra i quali l'acacia morishima. Questa pianta cresce tutto l'anno e mette fuori nuovi germogli in tutte le stagioni. Gli afidi che si nutrono di questi germogli cominciarono a moltiplicarsi. Le coccinelle trovarono negli afidi un cibo abbondante e presto anche loro cominciarono ad aumentare di numero. Dopo che le coccinelle ebbero divorato tutti gli afidi, scesero sulle piante di agrumi e cominciarono ad alimentarsi di altri insetti, come acari, cocciniglie virgole e cocciniglie cotonose. Produrre frutta senza potare, concimare o usare irroranti chimici è possibile solo all'interno di un ambiente naturale. Terreno da frutteto. Non c'è bisogno di dire che il miglioramento del suolo è un obiettivo fondamentale nella conduzione del frutteto. Se si usano concimi chimici, le piante crescono di più, ma ogni anno il suolo si esaurisce. Il concime chimico sottrae alla terra la sua vitalità. Se viene usato anche soltanto per un ciclo vegetativo, il terreno soffre notevolmente. Non esiste una direzione più saggia in agricoltura della via del risanamento integrale del suolo. 20 anni fa il volto di questo monte era di nuda argilla rossa, così dura che non ci si poteva nemmeno piantare una pala. Buona parte della terra qui attorno era così. La gente coltivava patate finché il suolo non si esauriva e poi i campi venivano abbandonati. Si potrebbe dire che, più che coltivare agrumi e verdura lassù, ho aiutato a restaurare la fertilità del suolo. Parliamo un po' di come mi misi a risanare quelle sterili scarpate. Dopo la guerra veniva incoraggiata la tecnica di vangare profondamente l'agrumeto e scavare delle fosse per apportare materia organica. Quando tornai al centro sperimentale provai a fare questo nel mio frutteto. Dopo alcuni anni conclusi che questo metodo è fisicamente stremante, ma per quanto riguarda il miglioramento del suolo è inutile. All'inizio seppellii paglia e felci che avevo portato giù dal monte. Trasportare dei pesi di 40 kg e più era una grossa fatica, ma dopo 2 o 3 anni non c'era nemmeno abbastanza humus da riempirmi una mano. I fossi che avevo scavato per seppellire la materia organica si abbassarono e diventarono delle pozzanghere. Subito dopo provai a sotterrare del legno. Sembra che la paglia sia coadiuvante, il coadiuvante più adatto a migliorare il terreno, ma giudicando dalla quantità di terriccio che si forma, il legno è meglio. Questo va bene finché ci sono alberi da tagliare, ma per qualcuno che non ha alberi nelle vicinanze, è meglio far crescere il legno proprio nel frutteto, invece di trasportarcelo da lontano. Nel mio frutteto vi sono pini e cedri, alcuni peri, cachi, nespoli, ciliegi del Giappone e molte altre specie e varietà locali che crescono fra le piante di agrumi. Uno degli alberi più interessanti, anche se non è locale, è l'Acacia Morishima. È la pianta che ho citato prima a proposito delle coccinelle e della protezione che offrono i predatori naturali. Il suo legno è duro, i fiori attirano le api e le foglie sono buone da foraggio. Aiuta a prevenire i danni degli insetti nel frutteto, funziona da frangivento e i batteri del genere Rhizobium che vivono in simbiosi con le radici fertilizzano il suolo. Questa pianta è stata introdotta in Giappone dall'Australia alcuni anni fa e cresce più in fretta di qualunque altro albero che abbia mai visto. Emette una radice fittonante e profonda in appena pochi mesi e in 6 o 7 anni è alta come un palo telefonico. Inoltre quest'albero fissa l'azoto, perciò se se ne piantano da 6 a 10 ogni 1000 metri quadri, si può ottenere il miglioramento negli strati profondi del terreno senza alcun bisogno di rompersi la schiena a trascinare tronchi giù per la montagna. Per quel che riguarda lo strato superficiale del suolo, seminai un miscuglio di trifoglio bianco ed erba medica sul terreno arido. Ci vollero diversi anni prima che attecchissero, ma finalmente crebbero e coprirono le scarpate del frutteto. Seminai anche il ramolaccio, il daikon. Le radici di questo ortaggio vigoroso penetrano profondamente nel terreno, aggiungendo sostanza organica e aprendo dei canaletti che favoriscono la circolazione dell'aria e dell'acqua. Si risemina facilmente da solo e dopo averlo seminato una volta ci se ne può quasi scordare. Via via che il suolo diventò più ricco, cominciarono a ritornare le erbacce. Dopo 7 o 8 anni il trifoglio era quasi scomparso fra le erbacce. Così buttai un po' più seme di trifoglio del solito nella tarda estate dopo aver tenuto indietro le erbacce con un taglio. Leggo la nota in fondo alla pagina. Taglio, cioè, dice, durante l'estate Fukuoka taglia con un falcetto le erbacce, i rovi e i getti degli alberi che crescono sotto le piante da frutto. Come effetto di questa fitta copertura di erbacce e trifoglio, negli ultimi 25 anni lo strato superficiale di terreno nel frutteto, che era dura argilla rossa, è diventato sciolto, di colore scuro e ricco di lombrichi e materia organica. Con le leguminose che fertilizzano la superficie del suolo e le radici dell'acacia morishima che lo migliorano in profondità, si può fare abbastanza bene a meno dei fertilizzanti e non c'è alcun bisogno di lavorare la terra in mezzo alle piante da frutta. Con alberi alti come frangivento, agrumi in mezzo e una copertura di piante da ingrasso sotto, ho trovato un modo per prendermela comoda e lasciare che il frutteto si mantenga da solo. coltivare ortaggi come piante selvatiche. Parliamo adesso della coltivazione degli ortaggi. Si può usare sia un orto vicino casa per fornire la verdura per la cucina della famiglia, oppure anche coltivare verdura in terreno aperto e non utilizzato. Per l'orto dietro casa basta dire che si devono coltivare gli ortaggi giusti al momento giusto, in terreno preparato con composto organico e letame. Il modo di coltivare verdura per la tavola nel vecchio Giappone si armonizzava bene col quadro naturale di vita. I bambini che giocano sotto gli alberi da frutta dietro casa, i maiali che mangiano i resti di cucina e grufolano intorno nel terreno, i cani che abbaiano e giocano mentre il contadino semina nella ricca terra, i lombrichi e gli insetti che crescono fra gli ortaggi, le galline che beccano i vermiciattoli e fanno le uova da mangiare per i bambini. La tipica famiglia rurale in Giappone ha coltivato ortaggi in questa maniera fino a non più di 20 anni fa. Le malattie delle piante erano evitate coltivando le varietà locali tradizionali al tempo giusto, mantenendo sano il suolo con restituirgli tutti i residui organici, facendo le rotazioni. Gli insetti nocivi venivano tolti a mano e anche beccati dalle galline. Nella zona sud di Shikoku c'era una razza di galline che mangiava vermi e insetti sugli ortaggi senza razzolare le radici né danneggiarne le piante. Qualcuno può essere scettico inizialmente a usare letame animale e rifiuti umani, ritenendola una cosa primitiva o sporca. Oggi la gente vuole verdura pulita, così gli agricoltori la coltivano in serre senza nemmeno usare il terreno. Colture su ghiaia, su sabbia e colture idroponiche diventano sempre più di moda. Gli ortaggi sono fatti crescere con sostanze chimiche nutritive e luce filtrata attraverso una copertura di vinile. È strano che la gente sia arrivata a considerare questa verdura cresciuta chimicamente come pulita e igienica da mangiare. Gli ortaggi cresciuti in un suolo equilibrato dall'azione dei lombrichi, dei microrganismi, del letame animale decomposto, sono i più puliti e più completi. Nel coltivare ortaggi in modo semiselvatico, facendo uso di un pezzo di terreno improduttivo, di un argine di fiume o in colti aperti, la mia idea è giusto di buttare i semi e lasciare che gli ortaggi crescano insieme alle erbacce. Io coltivo la mia verdura sulla scarpata del monte nello spazio che c'è fra le piante di agrumi. La cosa importante è conoscere il momento giusto per seminare. Per gli ortaggi di primavera il momento giusto è quando le erbacce invernali stanno morendo e appena prima che germinino quelle estive. Leggo la nota in fondo alla pagina. Questo modo di coltivare gli ortaggi è stato sviluppato da Fukuoka con prove ed esperimenti in armonia con le condizioni locali. Dove vive lui ci sono piogge primaverili sicure e un clima sufficientemente caldo da far crescere ortaggi in tutte le stagioni. Nel corso degli anni è riuscito a trovare quali ortaggi possono essere coltivati fra quali erbacce e il tipo di cure che ciascuno richiede. In molte parti del Nord America il metodo specifico che Fukuoka usa per coltivare ortaggi sarebbe impraticabile. Sta a ogni contadino che vuol produrre verdura nel modo semiselvatico di sviluppare una tecnica adatta alla sua terra e alla vegetazione naturale che ci cresce sopra. Continuo quindi. Per la semina autunnale, i semi dovrebbero essere buttati quando le erbe estive stanno appassendo e le erbacce invernali non sono ancora apparse. La miglior cosa è aspettare una pioggia che prometta di durare diversi giorni. Si taglia una striscia del manto di erbacce e si buttano i semi di verdure. Non c'è alcun bisogno di coprirli di terra, basta rimettere le erbacce tagliate sopra i semi, in modo che servano da appacciamatura e li nascondano agli uccelli e ai polli finché non germinano. Di solito le erbacce devono essere tagliate 2 o 3 volte per dare un po' di vantaggio ai germogli degli ortaggi, ma in certi casi basta solo una volta. Là dove le erbacce e il trifoglio non sono così fitti, si possono semplicemente buttare i semi. Le galline ne mangeranno alcuni, ma molti germineranno. Se si semina a file o in solchi, c'è la possibilità che i coleotteri o altri insetti divorino molti semi, perché camminano in linea retta. Anche le galline individuano un pezzo che è stato pulito e vengono a razzolarci. Secondo la mia esperienza, la miglior cosa è spargere i semi qua e là. Gli ortaggi cresciuti in questa maniera sono più forti di quanto la maggior parte della gente pensi. Se buttano su i germogli prima che le erbacce non saranno soffocati da queste più tardi. Vi sono alcuni ortaggi come gli spinaci e le carote che non germinano molto facilmente. Bagnare i semi in acqua per un giorno o due e poi avvolgerli in una piccola pallottolina di argilla risolverà questo problema. Se seminati un po' fitti, i ramolacci, le rape e vari ortaggi verdi autunnali da foglia saranno forti abbastanza da competere con successo con le erbacce invernali dell'inizio di primavera. Ce n'è sempre qualcuna che non viene mai raccolta e si seminano da sole ogni anno. Hanno un sapore eccezionale e rendono il fatto di mangiare un'esperienza molto ricca. È uno spettacolo strano vedere tanti ortaggi insoliti che crescono rigogliosi qua e là sul monte. Ramolacci e rape con la radice mezza dentro il terreno e mezza fuori. Le carote e la bardana vengono su spesso corte e grasse con molte radici capillari e io credo che il sapore aspro, leggermente amaro che hanno, sia quello dei loro originari predecessori selvatici. L'aglio, le cipolle, perla giapponesi e i porri cinesi, una volta trapiantati, verranno su da soli tutti gli anni. I legumi è meglio seminarli in primavera. Piselli e fagiolini nani sono facili a crescere e danno grossi raccolti. Nella coltivazione di piselli, fagioli a zucchi rossi, fagioli di soia, fagioli scritti e fagiolini nani, la germinazione precoce è essenziale. Avranno difficoltà a germinare se non ci sarà pioggia sufficiente e bisogna tenere d'occhio gli uccelli e gli insetti. I pomodori e le melanzane sono abbastanza forti da competere da giovani con le erbacce, perciò dovrebbero essere seminati in vivaio e più tardi trapiantati. Invece di mettere i sostegni, lasciare che i pomodori si propaghino sul terreno. Dai nodi lungo lo stelo principale cresceranno delle radici, e nuovi ributti verranno su e faranno i frutti. Per quanto riguarda i cetrioli, la varietà strisciante è la migliore. Bisogna curare le giovani pianticelle, tagliando le erbacce ogni tanto, ma dopo di questo le piante cresceranno forti. Si stenda sul terreno del bambù o i rami di un albero e i cocomeri e i cetrioli si copriranno completamente attorcigliandovisi. I rami tengono il frutto appena sopra il terreno in modo che questo non marcisca. Questo modo di coltivare i cetrioli funziona anche con i meloni e coi poponi. Le patate e le colocasie sono piante molto forti. Quando hanno attecchito continuano a crescere nello stesso posto ogni anno e non vengono mai soffocate dalle erbacce. Lasciarne solo poche nel terreno quando si raccoglie, questo è sufficiente. Se il suolo è duro, seminare prima i ramolacci. Con la crescita delle loro radici, lavorano e rendono soffice la terra e dopo poche stagioni si possono coltivare le patate al loro posto. Ho riscontrato che il trifoglio bianco serve a tenere lontane le erbacce. Cresce fitto e riesce a soffocare anche le erbacce forti come l'artemisia e la sanguinella. Se il trifoglio è seminato mescolato col seme degli ortaggi, farà le funzioni di una facciamatura viva, arricchendo il suolo e tenendo il terreno umido e areato. Come per la verdura, è importante scegliere il momento giusto per seminare il trifoglio. La cosa migliore è seminare nella tarda estate o in autunno. Le radici si sviluppano nei mesi freddi, dando al trifoglio un vantaggio sulle erbe annuali di primavera. Il trifoglio farà anche bene seminato presto in primavera. Va bene sia seminare a spaglio sia sulle file a 30 cm di distanza. Quando il trifoglio è attecchito non c'è più bisogno di riseminarlo per 5 o 6 anni. Lo scopo fondamentale di questa orticoltura, semi selvaggia, è quello di produrre ortaggi nel modo più naturale possibile, su terra che altrimenti sarebbe inutilizzata. Se si cerca di usare tecniche migliorate o di ottenere raccolti maggiori, il tentativo finirà con un fallimento. Nella maggior parte dei casi, il fallimento sarà provocato da insetti o da malattie. Se vari tipi di erbe e ortaggi sono mescolati fra loro e crescono in mezzo alla vegetazione naturale, il danno degli insetti e delle malattie sarà minimo e non ci sarà alcun bisogno di trattamenti o di togliere insetti a mano. Si possono far crescere ortaggi in qualunque posto dove ci sia una variata e vigorosa presenza di erbacce. È importante conoscere il ciclo annuale e il meccanismo di crescita di erbe ed erbacce. Osservando la varietà e la dimensione delle erbacce, in una data zona si può dire che suolo ci sia e se esista o meno qualche deficienza. Nel mio frutteto coltivo bardana, cavolo, pomodori, carote, senape, fagioli, rape e molte altre erbe ed ortaggi, in questo modo semiselvatico. Not Le condizioni per abbandonare i prodotti chimici. Oggi la coltivazione del riso in Giappone si trova a un bivio importante. Gli agricoltori e i tecnici sono incerti sulla via da seguire. Continuare col trapianto in risaia o passare alla semina diretta. E in questo secondo caso scegliere la lavorazione del terreno o la non lavorazione. Io ho continuato ad affermare durante gli ultimi 20 anni che la semina diretta senza lavorazione si dimostrerà alla fine la via migliore. La velocità con cui la semina diretta si sta già diffondendo nella provincia di Okayama è rivelatrice. C'è anche comunque chi dice che passare ad un'agricoltura non chimica per provvedere al fabbisogno alimentare del paese è impensabile. Sostengono che bisogna usare i trattamenti chimici per tenere sotto controllo le tre grandi malattie del riso: lo sclerozio, il brusone e la batteriosi. Ma se i contadini smettessero di usare deboli varietà migliorate di seme, smettessero di aggiungere troppo azoto al terreno e riducessero la quantità di acqua per l'irrigazione in modo da lasciare che si sviluppino le radici forti, queste malattie scomparirebbero tutte e i trattamenti chimici diventerebbero inutili. All'inizio il terreno di argilla rossa nei miei campi era debole e inadatto alla coltivazione del riso. Sopravveniva frequentemente l'elmintosporiosi, ma via via che nel campo aumentò gradualmente la fertilità, l'incidenza di questa malattia diminuì. Recentemente non ci sono stati più attacchi. Per quanto riguarda i danni da insetti, la situazione è la stessa. La cosa più importante è di non uccidere i predatori naturali. Tenere il campo continuamente allagato o irrigarlo con acqua stagnante oppure inquinata, anche questo provocherà dei problemi con gli insetti. I più dannosi, le cicaline, possono essere tenute sotto controllo mantenendo l'acqua fuori dal campo. Poiché le cicaline vivono d'inverno nelle erbacce, possono diventare un virus ospite. Se questo succede, il risultato è spesso una perdita dal 10 al 20% a causa del brusone del riso. Se non si usano sostanze chimiche, comunque, ci saranno molti ragni presenti nel campo e generalmente si può lasciare il lavoro a loro. I ragni sono sensibili anche alla più lieve alterazione umana e bisogna sempre fare attenzione a questo. Quasi tutti pensano che se i fertilizzanti chimici e gli insetticidi fossero abbandonati, le produzioni agricole cadrebbero a una frazione del livello attuale. Gli esperti stimano che le perdite del primo anno dopo l'abbandono degli insetticidi sarebbero circa del 5%. Una perdita di un altro 5% a causa dell'abbandono dei fertilizzanti chimici probabilmente non sarebbe molto lontana dal vero. Cioè, se l'uso dell'acqua nei campi di riso fosse ridotto e l'utilizzazione dei fertilizzanti chimici e antiparassitari, attualmente incoraggiata dai consorzi agrari, fosse abbandonata, le perdite medie del primo anno toccherebbero probabilmente circa il 10%. La capacità che ha la natura di recuperare è enorme e al di là di ogni immaginazione. E dopo questa perdita iniziale, penso che i raccolti crescerebbero e alla fine supererebbero il livello originario. Quando ero alla stazione sperimentale di Kochi, portai avanti degli esperimenti nella prevenzione dei minatori dello stelo. Questi insetti entrano e si alimentano sullo stelo della pianta di riso e per conseguenza il gambo diventa bianco e si secca. Il metodo per stimare il danno è semplice. Si conta quanti steli bianchi di riso ci sono. Su un centinaio di piante ci può essere il 10 o 20% di steli bianchi. Nei casi eccezionali, questo quando sembra che tutto il raccolto sia rovinato, il danno reale è di circa il 30%. Per cercare di evitare queste perdite, un campo di riso fu trattato con un insetticida per uccidere i minatori. Un altro campo fu lasciato senza trattamenti. Quando si calcolarono i risultati, venne fuori che il campo non trattato e con molti steli secchi aveva dato i raccolti più alti. All'inizio non ci potevo credere nemmeno io e pensai che ci fosse un errore nell'esperimento. Ma il dato risultò esatto, così indagai più a fondo. Era successo che attaccando le piante più deboli, i minatori avevano prodotto una specie di effetto di diradamento. L'appassimento di alcuni steli lasciò più spazio alle altre piante. La luce del sole poté così arrivare alle foglie più basse. Queste piante di riso rimaste per conseguenza crebbero più forti, fecero più steli con la spiga e produssero più chicchi ciascuna di quello che avrebbero potuto fare senza lo sfoltimento. Quando la densità degli steli è troppo grande e gli insetti non diradano quelli in eccesso, le piante sembrano abbastanza sane, ma in realtà il raccolto in molti casi è minore. Guardando le molte relazioni dei centri di ricerca sperimentali, si possono trovare i risultati dell'uso praticamente di ogni tipo di reazione chimica esistente. Ma generalmente non ci si rende conto che solo la metà di questi risultati viene resa pubblica. Naturalmente non c'è nessuna intenzione di nascondere niente, ma quando vengono pubblicati i risultati dalle industrie chimiche per loro pubblicità, succede che i dati contrari ai loro interessi restano nascosti. I risultati che dimostrano produzioni più basse, come nell'esperimento con i minatori, sono considerati esperimenti non probatori e vengono scartati. Esistono naturalmente casi in cui lo sterminio degli insetti provoca un aumento dei raccolti, ma ci sono altri casi in cui la produzione diminuisce. Rapporti di quest'ultimo tipo raramente compaiono sulla stampa. Fra le sostanze chimiche per l'agricoltura, i diserbanti sono probabilmente quelle di cui è più difficile convincere gli agricoltori a fare a meno. Sin dai tempi antichi il contadino è stato afflitto da quella che potrebbe essere chiamata la guerra contro le erbacce. Arare, smuovere la terra fra le file, lo stesso rituale del trapianto del riso, hanno tutti principalmente lo scopo di eliminare le erbacce. Prima dell'invenzione dei diserbanti, un contadino doveva fare parecchie miglia a piedi attraverso i campi inondati di riso in ogni stagione, spingendo un attrezzo per diserbare su e giù fra le file e strappando le erbacce a mano. È facile capire perché queste sostanze chimiche furono accolte come un dono dal cielo. Con l'uso della paglia e del trifoglio e con la sommersione temporanea dei campi, ho trovato una maniera semplice per controllare le erbacce, senza né il soffocante e duro lavoro della mondatura, né l'uso di sostanze chimiche. limiti del metodo scientifico. I ricercatori, prima di diventare ricercatori, dovrebbero diventare filosofi. Dovrebbero guardare qual è il fine dell'essere umano. Cos'è che l'umanità dovrebbe creare? I dottori dovrebbero determinare a livello fondamentale da che cos'è che gli esseri umani dipendono per la propria vita. Nell'applicare le mie teorie all'agricoltura, ho sperimentato vari modi di coltivare i miei raccolti, sempre con l'idea di sviluppare un metodo vicino alla natura. Ho fatto questo eliminando le pratiche agricole non necessarie. La moderna agricoltura scientifica, d'altra parte, non ha una visione del genere. La ricerca vaga senza meta e ogni ricercatore vede solo una parte dell'infinito ventaglio di fattori naturali che influenzano i raccolti. Inoltre, questi fattori naturali cambiano da un luogo all'altro e da un anno all'altro. Anche se sono gli stessi 1000 metri quadri, il contadino deve trattare le sue piante in modo diverso ogni anno, secondo le variazioni che avvengono nelle condizioni del tempo, nelle popolazioni di insetti, nello stato del suolo e in molti altri fattori naturali. La natura è dappertutto, in continuo movimento. Le stesse condizioni non si ripetono mai esattamente due volte. La ricerca moderna divide la natura a pezzettini e conduce esperimenti che non si conformano né alla legge naturale né alle esperienze pratiche. I risultati sono poi aggiustati secondo le esigenze della ricerca e non rispondono alla necessità del contadino. Pensare che queste conclusioni possano essere rese operanti con infallibile successo nei campi dei contadini è un grosso errore. Recentemente il professor Tsuno dell'Università di Eime ha scritto un grosso volume sui rapporti fra il metabolismo delle piante e le produzioni del riso. Questo professore viene spesso nei miei campi. Scava la profondità di qualche piede, dove un piede sono 30,48 centimetri, per controllare il terreno. Porta gli studenti a misurare l'angolo di rifrazione della luce del sole e l'ombra e ogni altra cosa possibile, e si porta via dei campioni di piante per farle analizzare nei laboratori. Io gli chiedo spesso, quando ritorna all'università, proverà la semina diretta senza lavorazioni? Ridendo risponde, no, guardi, lascio a lei le applicazioni, io resto fedele alla ricerca. Così stanno le cose. Si studia la funzione del metabolismo delle piante e la loro capacità di assorbire le sostanze nutritive dalla terra. Si scrive un libro e si riceve una laurea in scienze agrarie. Ma non ci si domanda se la propria teoria sull'assimilazione potrà avere una rilevanza per i raccolti. Anche se si riesce a spiegare come il metabolismo influenza la produttività della foglia apicale quando la temperatura media è di 84 gradi Fahrenheit, ci sono località dove la temperatura non è di 84 gradi Fahrenheit. E se la temperatura è 84 gradi a Eime quest'anno, l'anno prossimo potrà essere soltanto di 75 gradi. Affermare che il semplice aumento del metabolismo aumenterà la formazione dell'amido e produrrà un grosso raccolto è un errore. La geografia e topografia del terreno, la condizione del suolo, la sua struttura, tessitura e drenaggio, esposizione alla luce solare, i rapporti fra gli insetti, la varietà del seme usato, il metodo di coltivazione. Un numero veramente infinito di fattori devono essere presi in considerazione tutti. Un metodo scientifico di analisi che li consideri tutti è impossibile. Si sente molto parlare in questi giorni dei vantaggi del movimento del buon riso e della rivoluzione verde. Siccome questi sistemi si basano sull'uso di fragili varietà di sementi migliorate, diventa necessario ricorrere ai concimi chimici e agli insetticidi 8 o 10 volte durante la crescita delle piante. In breve tempo il suolo è bruciato e privo di microrganismi e materia organica. La vita del terreno è distrutta e le piante diventano succubi di sostanze nutritive che devono essere aggiunte dall'esterno sotto forma di fertilizzanti chimici. Apparentemente le cose vanno meglio quando il contadino applica le tecniche scientifiche, ma questo non significa che la scienza deve venire in soccorso perché la fertilità naturale sia intrinsecamente insufficiente. Significa che il soccorso è necessario perché la fertilità naturale è stata distrutta. Spargendo paglia, seminando trifoglio e restituendo al suolo tutti i residui organici, la terra arriva a possedere tutti gli elementi nutritivi necessari a coltivare il riso e i cereali invernali nello stesso campo ogni anno. Con l'agricoltura naturale, i campi che già sono stati danneggiati da lavorazioni o dall'uso di sostanze chimiche possono essere efficacemente riportati alla loro naturale fertilità. Un contadino parla chiaro. C'è parecchia sensibilità in questi tempi in Giappone e giustamente sul deterioramento qualitativo dell'ambiente e il conseguente inquinamento alimentare. I cittadini hanno organizzato boicottaggi e larghe dimostrazioni per protestare contro l'indifferenza dei dirigenti industriali e politici. Ma tutte queste attività, se portate avanti con lo spirito attuale, finiscono per essere solo fatica sprecata. Parlare di risolvere casi specifici di inquinamento è come curare i sintomi di una malattia quando la causa profonda del male continua ad avvelenare. 2 anni fa, per esempio, il Centro di Ricerca e Gestione Aziende Agricole, insieme con il Comitato per l'Agricoltura Organica e la Cooperativa NADA, organizzarono un convegno per discutere l'inquinamento. Presidente del convegno fu Teruo Ichiraku, che dirige l'Associazione Giapponese degli Agricoltori Organici ed è anche una delle figure più influenti nel consorzio agrario governativo. I consigli di questo ente su quali prodotti e varietà di sementi dovrebbero essere coltivate, quanto fertilizzante usare e quali sostanze chimiche si dovrebbero dare, sono seguiti da quasi ogni contadino in Giappone. Dato che partecipavano tante persone così influenti, intervenni sperando che si sarebbe potuta decidere un'azione di vasta portata e renderla operante. Dal punto di vista della pubblicazione del problema dell'inquinamento alimentare, si potrebbe dire che questo convegno ha avuto successo. Come altri incontri, le discussioni sono degenerate in una serie di relazioni altamente tecniche da parte di ricercatori specializzati ed in esperienze personali degli orrori dell'inquinamento alimentare. Sembrò che nessuno avesse voglia di affrontare il problema sul piano strutturale. In un dibattito sull'avvelenamento del tonno da mercurio, per esempio, il rappresentante dell'Ufficio della Pesca cominciò a spiegare come il problema fosse diventato veramente spaventoso. In questo periodo l'inquinamento da mercurio veniva discusso ogni giorno alla radio e sui giornali, e così tutti ascoltarono attentamente per sentire quello che aveva da dire. Il relatore riferì che la quantità di mercurio nei corpi dei tonni, anche di quelli pescati nell'Oceano Antartico o vicino al Polo Nord, era estremamente alta. Comunque, quando un campione di laboratorio risalente a diversi secoli fa era stato sezionato e analizzato, questo pesce, contro ogni aspettativa, conteneva anch'esso del mercurio. Cercando di spiegare il fenomeno, fece l'ipotesi che l'assorbimento del mercurio fosse necessaria la sopravvivenza del pesce. La gente dell'uditorio si guardò incredula. Lo scopo dell'incontro doveva essere quello di decidere come affrontare l'inquinamento che aveva già contaminato l'ambiente e prendere dei provvedimenti per correggerlo. E invece, ecco qua un rappresentante dell'ufficio della pesca venirci a dire che il mercurio è necessario per la sopravvivenza del tonno. Questo è quel che intendo quando dico che la gente non afferra la causa strutturale dell'inquinamento, ma lo vede solo da un punto di vista ristretto e superficiale. Io mi alzai e proposi che iniziassimo un'azione congiunta per mettere in piedi, subito e in quell'occasione, un piano concreto per affrontare l'inquinamento. Non sarebbe stato meglio parlare direttamente di interrompere l'uso delle sostanze chimiche che provocano l'inquinamento? Il riso, per esempio, può essere coltivato benissimo senza sostanze chimiche come gli agrumi. E non è difficile nemmeno produrre ortaggi in questa maniera. Dissi che si poteva fare e che io l'avevo fatto per anni nel mio podere, ma che finché il governo continuava a promuovere l'uso di sostanze chimiche, nessun altro avrebbe provato l'agricoltura pulita. Erano presenti all'incontro membri dell'ufficio della pesca, personalità del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dei consorzi agrari. Se loro e il presidente del congresso, Ichiraku, avessero veramente voluto far cambiare le cose e avessero proposto ai contadini di tutto il paese di provare a coltivare riso senza sostanze chimiche, si sarebbero potuti realizzare grossi cambiamenti. C'era comunque un grave problema. Se le piante fossero coltivate senza sostanze chimiche, fertilizzanti o macchine, le gigantesche industrie chimiche diventerebbero inutili e l'ufficio consorzi agrari del governo fallirebbe. Per mettere le cose proprio chiaramente, dissi che i consorzi e i moderni pianificatori della politica agraria dipendono da grossi investimenti di capitali in fertilizzanti e macchine agricole per la loro base di potere. Fare a meno di macchine e sostanze chimiche provocherebbe un completo cambiamento nelle strutture economiche e sociali. Perciò non riuscivo a vedere come i Ichiraku, i consorzi o i funzionari del governo potevano favorire veramente dei provvedimenti per abolire l'inquinamento. Quando parlai chiaro in questo modo, il presidente disse: Fukuoka, lei sta disturbando la conferenza con le sue osservazioni. E mi tolse la parola. Bene, questo è successo. We'll be right back. una semplice soluzione a un difficile problema. Così si dimostra che gli uffici ministeriali non hanno alcuna intenzione di arrestare l'inquinamento. Una seconda difficoltà è che tutti gli esperti del problema dell'inquinamento alimentare devono essere messi insieme e risolti contemporaneamente. Un problema non può essere risolto da persone che si occupano solo di uno o l'altro dei suoi aspetti. Finché la consapevolezza di ciascuno non verrà trasformata dalle fondamenta, l'inquinamento non si fermerà. Per esempio, il contadino pensa che il mare interno, e leggo la nota, il piccolo mare fra le isole di Honshu, Kyushu e Shikoku, quindi il contadino pensa che il mare interno non lo guardi affatto, non lo riguardi affatto. Pensa che sia compito dei funzionari dell'ufficio della pesca di occuparsi dei pesci e che stia al comitato dell'ambiente di mandare all'inquinamento, di badare all'inquinamento del mare. Il problema sta tutto in questa maniera di pensare. I fertilizzanti usati più comunemente, quindi solfato ammonico, urea, superfosfati e simili, sono usati in grandi quantità, di cui solo una minima parte viene assorbita dalle piante nei campi. Il resto viene dilavato nei fiumi e torrenti, finendo nel mare interno. Questi composti azotati diventano alimento per le alghe e plancton che si moltiplicano in gran numero, provocando la comparsa della marea rossa. Certamente gli scarichi industriali di mercurio e altri rifiuti contaminati contribuiscono anche loro all'inquinamento, ma la maggior parte dell'inquinamento delle acque in Giappone è provocato dalle sostanze chimiche usate in agricoltura. È dunque il contadino che deve addossarsi la maggiore responsabilità della marea rossa. Il contadino che utilizza le sostanze chimiche inquinanti sul suo campo, le industrie che producono queste sostanze, i funzionari del villaggio che credono nella convenienza dei prodotti chimici e offrono la propria assistenza tecnica conseguentemente. Se ciascuna di queste persone non prende in considerazione il problema profondamente, non ci sarà nessuna soluzione all'inquinamento delle acque. Così come stanno le cose, solo quelli che più direttamente sono colpiti diventano attivi nel cercare di affrontare i problemi dell'inquinamento, come nel caso della lotta dei pescatori locali contro le grandi compagnie petrolifere dopo la fuoriuscita di petrolio vicino a Mizushima. Oppure qualche professore propone di affrontare il problema aprendo un canale nell'istmo dell'isola Shikoku per lasciare che affluisca nel mare interno l'acqua relativamente pulita dell'Oceano Pacifico. Cose del genere sono ricercate e tentate continuamente, ma una vera soluzione non può mai venir fuori in questa maniera. Il fatto è che qualunque cosa facciamo, la situazione peggiora sempre. Più sono elaborate le soluzioni e più complicati diventano i problemi. Supponiamo che venisse fatto passare un tubo attraverso l'isola di Shikoku e che l'acqua fosse pompata dal Pacifico e immessa nel mare interno. Ammettiamo pure che questo provvedimento fosse capace di ripulire il mare interno. Ma da dove verrà l'energia elettrica per far funzionare l'industria che produrrà il tubo d'acciaio? E che dire dell'energia necessaria a pompare l'acqua? Diventerebbe necessaria una centrale nucleare. Per costruire una struttura del genere devono essere messi insieme il cemento e tutti i materiali necessari e deve essere costruito anche un centro di ritrattamento dell'uranio. Quando le soluzioni si sviluppano in questa maniera, gettano solo i semi per problemi di inquinamento di una seconda e terza generazione, che saranno più difficili dei precedenti e più estesi. È come il caso del contadino avido che apre troppo le chiuse per l'irrigazione e lascia entrare l'acqua di corsa nella sua risaia. Si forma una crespa e l'argilla crolla via. A questo punto diventa necessario un lavoro di sostegno. I muri vengono rinforzati e il canale di irrigazione allargato. L'aumentato volume dell'acqua aumenta solo il pericolo potenziale, e la prossima volta che l'argine si indebolisce, uno sforzo ancora maggiore sarà necessario per la ricostruzione. Quando viene presa la decisione di affrontare i sintomi di un problema, si dà generalmente per scontato che i provvedimenti correttivi risolveranno il problema stesso. Raramente lo fanno. A quanto pare gli ingegneri non riescono a mettersi in mente questo fatto. Queste soluzioni sono fondate su una visione troppo miope di quel che non va. I provvedimenti e le soluzioni umane derivano da un giudizio e da una verità scientifica limitati. E leggo la nota. Con giudizio e verità scientifica limitati, Fukuoka si riferisce al mondo come viene percepito e costruito dall'intelletto umano. Egli considera che questa percezione è limitata da una struttura mentale relegata nei suoi presupposti. Una vera soluzione non può mai venire fuori in questa maniera. Le mie soluzioni modeste, come lo spargere paglia e il seminare trifoglio, non creano inquinamento. Sono efficaci perché eliminano la radice del problema. Finché la fede moderna e le grandi soluzioni tecnologiche non viene scalzata, l'inquinamento sarà soltanto peggiore. Il frutto di tempi difficili. I consumatori generalmente danno per scontato di non aver nulla a che fare con chi provoca l'inquinamento agricolo. Molti di loro chiedono alimenti che non abbiano subito trattamenti chimici. Ma i cibi trattati chimicamente vengono commercializzati principalmente per venire incontro alle richieste dei consumatori. Il consumatore preferisce prodotti grandi, scintillanti, senza macchie e di forma regolare. Per soddisfare questi desideri, sono entrate rapidamente in uso delle sostanze chimiche che 5 o 6 anni fa non erano ancora utilizzate. Come siamo arrivati in un simile veicolo cieco? La gente dice che non gli importa se i cetrioli sono diritti o storti e che la frutta non deve essere per forza bella di fuori. Ma date qualche volta un'occhiata ai supermercati di Tokyo se volete vedere come il prezzo risponde alla domanda dei consumatori. Quando la frutta ha un'apparenza solo un poco migliore, si ricavano 5-10 centesimi in più ogni 450 grammi. 150 o 200 lire al chilo, insomma. Quando la frutta è classificata piccola, media o grande, il prezzo al chilo può raddoppiare o triplicare con ogni aumento di dimensione. La disponibilità del consumatore a pagare alti prezzi per alimenti prodotti fuori stagione ha contribuito anch'essa all'intensificarsi di metodi artificiali di coltivazione e di uso di sostanze chimiche. L'anno scorso i mandarini Unshu, coltivati in serre per le spedizioni estive, spuntavano prezzi 10 o 20 volte più alti dei mandarini di stagione. Invece del solito prezzo di 160 fino a 240 lire al chilo, venivano pagati prezzi offensivi di 1280, 1600, anche 1200 lire al chilo. E così, se si investono diversi milioni per fare l'impianto, si compra il carburante necessario e si fanno le ore di straordinario, si può realizzare un profitto. Coltivare fuori stagione sta diventando ogni giorno sempre più di moda. Per avere mandarini solo un mese prima, la gente nelle città sembra sufficientemente contenta da pagare l'investimento aggiuntivo dell'agricoltore in lavoro e attrezzature. Ma se si domanda quanto sia importante per gli esseri umani di avere questa frutta un mese prima, la verità è che non è affatto importante. I soldi non sono il solo prezzo pagato per permettersi una simile concessione. Inoltre, adesso è entrato in uso un colorante non utilizzato fino a pochi anni fa. Con questa sostanza chimica, la frutta diventa completamente colorata una settimana prima. A seconda se la frutta è venduta una settimana prima o dopo il 10 ottobre, il prezzo raddoppia o diminuisce della metà. Così il coltivatore, quando la frutta è ancora sulla pianta, applica le sostanze chimiche che accelerano il colore e dopo il raccolto mette la frutta in una camera di maturazione e la sottopone ai trattamenti col gas. Ma quando la frutta viene spedita e messa sul mercato troppo presto, non è abbastanza dolce e perciò si usano dei dolcificanti artificiali. Si ritiene generalmente che i dolcificanti chimici siano stati proibiti, ma il dolcificante artificiale spruzzato sulle piante di agrumi non è stato specificamente messo fuori legge. Il problema è se cada o meno nella categoria di sostanza chimica per l'agricoltura. In ogni caso quasi tutti lo usano. La frutta viene portata allora al centro cooperativo di selezione. Per dividere i frutti secondo le varie pezzature, grandi e piccole, ognuno viene fatto rotolare per diverse centinaia di metri in un lungo convogliatore. Gli ammaccamenti sono frequenti. Più grande è il centro di selezione e più a lungo la frutta viene fatta ruzzolare e rimbalzare di qua e di là. Dopo un lavaggio in acqua, i mandarini vengono irrorati con dei conservanti e vi viene spazzolato sopra un colorante. Finalmente, come tocco finale, viene applicata una soluzione di cera paraffinata e la frutta è lucidata fino a diventare di una lucentezza splendente. Oggigiorno la frutta è veramente messa a dura prova. Così da poco prima di essere raccolta fino al momento in cui viene spedita e messa in mostra sul banco di vendita, la frutta è trattata con 5 o 6 sostanze chimiche. Ciò senza contare i fertilizzanti e i trattamenti fatti durante la crescita e maturazione del frutteto. Tutto questo perché il consumatore vuole comprare frutta solo un po' più attraente. Un margine così piccolo di preferenza ha messo il coltivatore in un vero e proprio vicolo cieco. Queste cose non vengono fatte perché al coltivatore piace di lavorare in questo modo o perché i funzionari del Ministero dell'Agricoltura si divertono a far fare al coltivatore tutto questo lavoro in più, ma finché il senso generale dei valori non cambia, la situazione non migliorerà. Quando lavoravo nella dogana di Yokohama, 40 anni fa, i limoni e gli aranci Sunkist venivano trattati in questa maniera. Io ero molto contrario all'introduzione di questo sistema in Giappone, ma le mie parole non potevano impedire che l'attuale sistema venisse adottato. Se un'azienda agricola o una cooperativa comincia ad adottare un nuovo processo di lavorazione come la lucidatura a cera dei mandarini, a causa della cura e apparenza migliore, il profitto sarà maggiore. Le altre cooperative agricole lo notano e ben presto anche loro adottano il nuovo processo. La frutta non trattata con la cera non spunta più i prezzi di prima. In 2 o 3 anni la lucidatura a cera viene adottata in tutto il paese. La concorrenza fa allora abbassare i prezzi e tutto quel che resta al coltivatore è l'onere del corrispondente lavoro in più e i costi maggiorati degli approvvigionamenti e dell'attrezzatura. Adesso è costretto a dare la cera per forza. Naturalmente il consumatore ne subisce le conseguenze. Alimenti che non sono freschi possono essere venduti perché sembrano freschi. Parlando dal punto di vista biologico, la frutta che si trova in uno stato di leggero avvizzimento mantiene la sua respirazione e consumo di energia al più basso livello possibile. È come una persona in meditazione. Il suo metabolismo, respirazione e consumo di calorie raggiungono un livello estremamente basso. Anche se digiuna, l'energia del corpo sarà conservata. Allo stesso modo, il raggrinzimento dei mandarini, l'avvizzimento della frutta, l'appassimento della verdura è la condizione che conserverà il loro valore alimentare più a lungo possibile. È un errore cercare di conservare solo l'apparenza della freschezza, come quando i negozianti buttano continuamente acqua sulla loro verdura. Anche se questa viene tenuta in una freschezza apparente, il suo sapore e valore nutritivo ben presto si deteriorerà. Ad ogni costo, tutte le cooperative agricole e i centri collettivi di selezione sono stati integrati e diffusi per portare avanti simili attività non necessarie. E questo viene chiamato modernizzazione. La produzione viene confezionata, immessa nel grande sistema di distribuzione e spedita al consumatore. Per dirla in poche parole, finché non ci sarà un rovesciamento del senso dei valori che si preoccupano più della dimensione, dell'apparenza che della qualità, non ci sarà alcuna soluzione al problema dell'inquinamento alimentare. La commercializzazione degli alimenti naturali. Nell'ultimo periodo, che data ormai da diversi anni, ho spedito da 88 a 110 staia di granella, da 23 a 30 quintali, di riso ogni anno ai negozi di alimentari naturali in varie parti del paese. Ho anche spedito 400 cartoni da 16 kg di mandarini nei camion da 10 tonnellate all'associazione di vita cooperativa nel distretto Tsujinami di Tokyo. Il presidente della cooperativa voleva vendere prodotti coltivati senza inquinanti e ciò costituì il fondamento del nostro accordo. Il primo anno andò piuttosto bene, ma ci furono anche alcune lamentele. La grandezza dei frutti era troppo variabile. All'esterno erano un po' sporchi, la buccia era a volte grinzosa e così via. Avevo spedito la frutta in cartoni semplici, senza marchi, e ci fu chi sospettò, senza ragione, che la frutta fosse solo un assortimento di seconda. Adesso confeziono la frutta in cartoni con su scritto mandarini naturali. Dato che gli alimenti naturali possono essere prodotti col minimo di spesa e fatica, secondo il mio modo di ragionare, dovrebbero essere venduti al prezzo più basso di tutti. L'anno scorso, nella zona di Tokyo, la mia frutta era quella che costava meno. Secondo molti negozianti, il suo sapore era più delizioso. Sarebbe meglio, ovviamente, se la frutta potesse essere venduta sul posto, eliminando il tempo e la spesa della spedizione. Ma anche così il prezzo era giusto. La frutta non aveva sostanze chimiche e il suo gusto era buono. Quest'anno mi è stato chiesto di spedirne una quantità due o tre volte maggiore. A questo punto nasce la domanda: fino a che punto può diffondersi la vendita diretta di alimenti naturali? Ho una speranza a questo proposito. Recentemente i frutticoltori chimici sono stati trascinati in gravi ristrettezze economiche e questo rende la produzione di alimenti naturali più interessante per loro. Per quanto il contadino medio lavori forte per dare le sostanze chimiche, i coloranti, la cera e così via, può solo vendere la sua frutta a un prezzo che copre a malapena le spese. Quest'anno ha anche un podere con frutta eccezionalmente bella, può solo aspettarsi di realizzare un profitto di meno di 80 lire al chilo. Il contadino che produce frutta di qualità appena inferiore finirà con nulla del tutto. Dato che i prezzi sono crollati negli ultimi anni, le cooperative agricole e i centri di selezione sono diventati molto severi e scelgono solo la frutta di migliore qualità. La frutta più andante non può essere venduta ai centri di selezione. Dopo una giornata intera di lavoro nel frutteto a cogliere i mandarini, a caricarli nelle scatole e a portarli al capannone per sceglierli, il contadino deve lavorare fino alle 11 o a mezzanotte a ripassare i suoi frutti uno per uno, mettendo da parte solo quelli perfetti per forma e dimensione. Leggo la nota. La frutta rifiutata è venduta a metà prezzo circa a una compagnia privata che la schiaccia per fare spremute. La frutta buona raggiunge solo dal 25 al 50% in media del raccolto totale e perfino un po' di questa è rimandata indietro alla cooperativa. Se l'utile che resta è appena 2 o 3 centesimi di dollaro ogni 450 grammi, ci si considera fortunati. Il povero coltivatore di agrumi lavora forte di questi tempi e ciò nonostante, a malapena, riesce a fare pari. Coltivare frutta senza trattamenti chimici, senza fertilizzanti né lavorazioni del terreno comporta meno spese e perciò il guadagno netto del contadino è più elevato. La frutta che spedisco praticamente non ha subito selezioni. Non faccio altro che metterla in una scatola, spedirla al mercato e andare a letto presto. Gli altri contadini qui intorno si rendono conto di lavorare molto solo per finire con niente in tasca. Sta crescendo l'opinione che non c'è niente di strano a coltivare prodotti per l'alimentazione naturale e i produttori sono pronti a passare a coltivare senza la chimica. Ma finché gli alimenti naturali non possono essere distribuiti localmente, Il contadino medio avrà paura di non trovare un mercato in cui vendere la sua produzione. Da parte del consumatore, quel che si ritiene di solito è che i cibi naturali dovrebbero costare cari. Se non sono cari, la gente sospetta che non siano naturali. Un dettagliante mi fece notare che nessuno compra prodotti naturali se non costano cari. A me sembra lo stesso che i cibi naturali dovrebbero essere venduti a meno degli altri. Diversi anni fa mi fu chiesto di mandare il miele raccolto nell'agrumeto e le uova fatte dalle galline sul monte a un negozio di cibi naturali a Tokyo. Quando scoprii che il negoziante li vendeva a prezzi esorbitanti, andai su tutte le furie. Sapevo che un commerciante è capace di approfittare dei suoi clienti in questa maniera e sarebbe stato anche capace di mescolare il mio riso con un altro per aumentare il peso e anche quello sarebbe arrivato al consumatore a un prezzo disonesto. Interruppi immediatamente tutte le spedizioni a quel negozio. Se il prezzo degli alimenti naturali è alto, significa che il commerciante ci guadagna troppo. Inoltre, se i cibi naturali sono cari, diventano generi di lusso e sono ricchi e solo i ricchi se li possono permettere. Se gli alimenti naturali devono diffondersi ampiamente, devono essere disponibili localmente a un prezzo ragionevole. Basta che il consumatore si adatti all'idea che i prezzi bassi non vogliono dire che gli alimenti non sono naturali e tutti cominceranno a pensare nella direzione giusta. Quindi questo era l'audiolibro di Masanobu Fukuoka, La rivoluzione del filo di paglia. Questa è la terza puntata di questo audiolibro, siamo all'incirca, fatemi vedere, sì, poco più avanti di metà libro, quindi probabilmente ancora altre due puntate per arrivare alla conclusione. Che dire, quindi spero vi stia appassionando. E, quindi sì, la prossima volta forse continuerò con questo, forse magari piuttosto vi manderò una puntata un po' diversa per fare un po' di così, un po' di pause, un po' di interruzioni, vedere, insomma, non annoiarvi troppo. Io vi saluto con un'ultima canzone e qui, come forse avete sentito, mi sono servita di una playlist trovata semplicemente da internet in realtà, ma di tutta musica giapponese, dal funk al jazz, anche alla disco andante, direi. Non so sinceramente di cosa trattavano questi brani, devo essere sincera, però va bene così. Vabbè, giapponese chiaramente, per ricollegarmi all'autore del libro. Io dunque vi saluto, vi auguro una buona serata. A questo punto sarete in attesa, suppongo, di o Le Porte di Tannhäuser oppure Slick Chick. In ogni caso rimanete connesse al palinsesto di Radio Wombat. Vi ricordo i contatti della radio, cosa che non ho fatto a inizio puntata. Quindi radiowombat.net è il sito da cui vedete ogni giorno, ogni settimana pubblicati i podcast delle ultime puntate uscite di tutte le trasmissioni, e da cui trovate anche nella sezione contatti il modo di appunto entrare in contatto con noi. E, altrimenti comunque ricordate che per ascoltarci, oltre allo streaming dal sito, ci sono anche le bellissime frequenze medie o mediocri, cosiddette le 13:59 AM. Dunque, allora ci risentiamo settimana prossima, quindi Nerevature finalmente è tornata in onda, ricordo come sempre, quindi lunedì alle 19. Buona serata a tutte e tutti.